castello oro non c'è. Io ti conosco quasi da sempre e non c'è sangue dentro di te. Non voglio entrare alla tua corte, nel tuo giardino degli eroi. Decideranno la fine al falco, tu puoi falciarmi. Ma non ti amerò mai. Sta volando l'aquila e il falco, via da...